Italia in controluce. Buon pomeriggio, è la seconda edizione di Italia in controluce, in studio Daniele Biacchessi. Oggi il secondo omaggio, ieri a Giovanni Falcone, oggi a Paolo Borsellino nel giorno dell'anniversario della sua morte. Sabrina Pisu racconta la strage di Via D'Abeglio dove persero la vita Paolo Borsellino, gli uomini della scorta. Io ero stato incaricato da Francesco Messina Denaro a tenermi pronto per uccidere il dottor Paolo Borsellino quando era procuratore a Marsala. Si doveva uccidere il dottor Borsellino in due modi: o con un fucile di precisione, e lì sarei stato io a sparare, oppure con un'autobomba. Il mio ruolo era di copertura, perché lui non doveva avere scampo, doveva morire e basta. Vincenzo Calcara era un affiliato della famiglia mafiosa di Castelvetrano. Era l'uomo che, per ordine del boss Francesco Messina Denaro, capomandamento della mafia trapanese, avrebbe dovuto uccidere il giudice Paolo Borsellino. Di questo Borsalino, così lui lo chiamava, Borsalino, non deve rimanere nessuna traccia. Percepivo la rabbia di Francesco Messina Denaro, ma percepivo anche la paura che aveva verso il dottor Paolo Borsellino. Nel 91 Vincenzo Calcara si pente dopo l'incontro col giudice avvenuto nel carcere di Favignana. Ho la certezza che quest'uomo deve morire, e io e lui abbiamo in comune la stessa cosa, la morte, perché anch'io ero condannato a morte per aver avuto una relazione con la figlia di un uomo d'onore. E quindi gli ho detto, lo guardiamo negli occhi: dottore, lei non ha paura, io ho paura di morire. E lui mi risponde: Vincenzo, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore solo una volta. È bello morire per ciò in cui si crede. Io credo in quello che faccio, e se c'è da morire, si muore. Vincenzo Calcara parla da una località segreta dove vive da ex collaboratore di giustizia e dice: Borsellino è stato abbandonato al suo destino. Dopo quasi 20 anni denuncio, non ho paura di parlare e raccontare tutto ciò che so sulle entità che stanno dietro Cosa Nostra e che sono ancora più pericolose di Cosa Nostra. Lo Stato, quello Stato deviato, lo ha lasciato solo al proprio destino. Tutti sapevano che c'era un piano ben preparato, eppure, anziché blindare la sua vita, lo hanno lasciato solo al suo destino. Ad uccidere il giudice non è solo Cosa Nostra. Cosa Nostra non si poteva permettere da sola di decidere di uccidere Paolo Borsellino. Gli interessi erano enormi. C'è una super commissione che va oltre Cosa Nostra, che ha deciso la morte di Paolo Borsellino. Quell'agenda rossa che io ho visto, dove lui si scriveva le cose importanti, persone che mangiavano nello stesso piatto che l'hanno tradito. La società civile dovrebbe sapere tutte queste cose. Dopo Giovanni Falcone, l'obiettivo è Paolo Borsellino. Capaci e Via D'Amelio sono distanti 56 giorni, gli ultimi di vita del giudice che lavora giorno e notte tra le carte e il fumo delle sigarette, la corsa contro il tempo di un uomo consapevole, racconta la sorella Rita. Paolo comincia a morire lì praticamente, lui si rende conto che il prossimo sarà lui. Lui lo dice anche apertamente, comincia una lotta contro il tempo per cercare di portare quanto più avanti possibile la scoperta della verità. Lui lavora intensamente a questo, chiede di essere applicato a Caltanissetta per poter eseguire direttamente le indagini, non gli viene concesso, ma lui continua a lavorare, a cercare una verità che probabilmente riesce anche a trovare o inizia a trovare, ed è per questo che probabilmente c'è questa accelerazione nella decisione di uccidere anche Paolo Borsellino. Ma lui era perfettamente consapevole di tutto questo. Borsellino in quei giorni ripeteva: ho capito tutto, mi uccideranno, ma non sarà solo la mafia. Ho capito tutto, sto vedendo la mafia in diretta. Fece degli accenni mai chiariti sul fatto che un amico lo aveva tradito. Sono cose che vengono fuori via via nel corso di 19 anni, non sono poche. Se certi ricordi fossero affiorati prima e messi prima a disposizione dell'indagine, non sarebbe successo quello che è successo. Oggi si va addirittura verso la revisione del processo. Significa che per tutti questi anni ci hanno propinato delle false verità che praticamente hanno deviato e depistato persino l'opinione pubblica. Lui capirà, ricordatevi che non sarà soltanto mafia. Nonostante tutti sapessero che Paolo Borsellino sarebbe stato il prossimo a morire, a Palermo, in via D'Amelio, una strada chiusa dove abitava la madre del giudice, non era stata presa nessuna misura precauzionale. In quella strada dove Paolo veniva regolarmente, perché veniva a trovare me e mia madre, non era stata presa nessuna precauzione, nonostante fosse stata ripetutamente sollecitata. È domenica, il 19 luglio 1992, sono le 16:58 minuti, 20 secondi, quando un'autobomba esplode in via D'Amelio. Insieme a Borsellino muoiono anche i 5 agenti di scorta, gli angeli, come li chiamava lui, Agostino Catalano, Walter Eddy Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. L'agente scelto Walter Eddy Cosina era arrivato dalla questura di Trieste per scortare il giudice, come racconta sua sorella Edna. Alla questura di Trieste arriva un fonogramma con la richiesta di alcuni agenti per fare appunto la scorta del giudice Borsellino a Palermo. Mio fratello, quando l'ha saputo, è stato il primo ad offrirsi. Mio fratello fin da ragazzino aveva il pallino di fare il poliziotto. Era molto altruista, era molto legato alla sua famiglia. Queste sue qualità lo hanno portato a una scelta di essere un servitore dello Stato. La famiglia era il cuore dello Stato e lo Stato era nel suo cuore. Amava moltissimo questo paese, era proprio fiero di essere italiano. Credeva nel suo lavoro, nelle istituzioni, credeva in un'Italia unita, pulita, esempio di civiltà. Aveva un grande senso del dovere. Mio fratello ha dato semplicemente ciò che dovrebbe essere normale fare. A 19 anni dalla strage di via D'Amelio si cerca ancora la verità, tra muri di gomma, silenzi e misteri, a partire dalla scomparsa dell'agenda rossa dove Paolo Borsellino annotava tutto, come racconta Umberto Lucentini, giornalista e componente della Fondazione Borsellino. La scomparsa di questa agenda è proprio l'emblema che dietro questa strage non c'è soltanto il sanguinario carnefice di Cosa Nostra, perché la borsa è stata ritrovata intatta, dentro la borsa c'erano il costume, gli occhiali da sole, le sigarette. L'unica cosa che mancava, guardo un po', era quell'agenda rossa che non si è mai più trovata. Intanto la procura di Caltanissetta dà un nome al killer che schiacciò il pulsante che fece saltare in aria la 126 imbottita di tritolo. La mano è quella di Giuseppe Graviano, boss di Brancaccio. Un passo avanti consistente nelle indagini, dice Antonio Ingroia, procuratore aggiunto di Palermo. Sicuramente un passo avanti consistente, la verità questo si era già profilato dalle acquisizioni degli ultimi di quest'ultimo anno, la dichiarazione di Spatuzza, i riscontri che conferma la dichiarazione di Spatuzza, il tema della trattativa è originato inizialmente la dichiarazione di Cencimine, ma poi sulla base anche di una serie di ulteriori conferme e di riscontri avevano già delineato un quadro che oggi la Procura di Caltanissetta ha riepilogato in un quadro diciamo coerente. Credo che sia importante perché si va verso la individuazione del movente della strage, con l'individuazione di alcune responsabilità. Vedremo se le indagini consentiranno, e io me lo auguro, di individuare anche i cosiddetti mandanti esterni. Nel 19° anniversario resta il coraggio di Borsellino e degli agenti di scorta, persone che, come dice il giudice in un'intervista rilasciata dopo la morte di Falcone, vivevano il loro lavoro come un dovere morale. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio. Quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in estremo pericolo è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Nel giorno della rabbia, del dolore, dei ricordi e delle domande, la riflessione di Edna Cosina, che interroga la responsabilità di tutta la società civile. Vorrei anche citare una frase di Giancarlo Caselli, ex procuratore generale di Palermo. Lui dice: loro sono morti perché noi non siamo stati abbastanza vivi. Riflettiamo su questa frase. La seconda edizione di Italia in Controluce era lo speciale, avete sentito, dedicato alla strage di Via D'Amelio. Siamo su Facebook con la pagina del gruppo, su Twitter, il blog su radio24.it, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani mattina 6:30, Radio 24.